Letture di Radio 24. Lite tra Lenin e Stalin in Piazza del Maneggio, vicino alla Piazza Rossa di Mosca. La Tifa Valiev, da anni sosia di Stalin per i turisti sotto le mura del Cremlino, ha accusato il suo collega Igor Gorbunov, che impersona Lenin, di doppio giochismo. L'accusa, molto lontana da quelle dei famigerati veri processi staliniani, non ha motivi ideologici, bensì di banale concorrenza sleale. Valiev ha rampognato il collega perché stava facendo coppia alle sue spalle con un altro Stalin. Durante uno scambio verbale piuttosto acceso, riferisce l'agenzia cittadina Moskva, Valiev Stalin ha dato 3 ombrellate a Gorbunov Lenin all'ingresso della vicina stazione della metro Okhotny Ryad. Il padre della rivoluzione bolscevica ha avuto la peggio, ma ora confida nei tribunali post-sovietici. La procura ha infatti aperto un'indagine sull'incidente e non è escluso che si arrivi a un'inedita condanna di Stalin per aggressione a Lenin. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Per gelosia Stalin picchia Lenin, ma sono sosia, dal numero di luglio-agosto della rivista Storia in Rete. Dopo i commenti condizionati dall'emozione, cominciano ad emergere i problemi giganteschi che una politica dell'accoglienza pone all'Europa, scrive Giovanni Belardinelli in un editoriale pubblicato giovedì scorso sul Corriere della Sera. La Germania accoglierà i siriani, appartenenti spesso al ceto medio istruito e qualificato. Ma chi accoglierà gli altri? All'Italia, la prospettiva di dare accoglienza per molti anni a un gran numero di migranti pone problemi particolari, continua Belardinelli. È noto come dietro l'apertura tedesca ci siano, oltre alle ragioni ideali della solidarietà, anche quelle pratiche legate alla sostenibilità di un sistema economico e di un welfare fortemente a rischio per il calo demografico tedesco, da ultimo perfino più accentuato di quello italiano. Ma per l'Italia questo vantaggio rischia di essere più incerto. È vero, gli immigrati hanno una disponibilità al lavoro e soprattutto la loro prole è indispensabile per contrastare un decremento demografico che mette in serio pericolo la possibilità di pagare le pensioni agli anziani di domani. Ma il beneficio non si lega all'incremento demografico di per sé, essendo ovviamente necessario che i nuovi nati trovino poi un lavoro. Un esito che, in un paese in cui la crescita economica è bloccata da 20 anni, non pare affatto sicuro. Per di più, accogliere un numero crescente di immigrati accentua quei problemi legati all'integrazione ai quali abbiamo fin qui dato un'attenzione superficiale che non è andata oltre la questione della cittadinanza. Non ci è del tutto chiara, ad esempio, la distinzione tra società multietnica e società multiculturale. La prima espressione designa una realtà di fatto, ciò che l'Italia già è diventata da anni. La seconda implica il riconoscimento e la coesistenza di usi, costumi, a volte leggi, diversi da quelli del nostro paese. Un riconoscimento che difficilmente potrà essere totale, pena il rischio di legittimare comportamenti in contraddizione con le nostre leggi, come è accaduto in Gran Bretagna, dove si è autorizzata la presenza di corti islamiche, nelle quali viene applicata, ovviamente con delle limitazioni, la Sharia. Credo che siano queste, o altre dello stesso tenore, le domande che in questi giorni milioni di italiani pongono a se stessi e al loro governo. Non sono le domande di chi vorrebbe ributtare in mare i migranti o costruire barriere di fino spinato. Sono le domande che salgono da un paese che per la sua storia e la sua cultura condivide i valori e le ragioni della solidarietà, ma vorrebbe anche ricevere da chi lo governa risposte più adeguate a paure e timori che non sempre sono infondati. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'editoriale di Giovanni Belardinelli, Ma le paure vanno comprese. Negli Stati Uniti, 2/3 degli studenti che arrivano alla laurea devono poi, nel corso della loro vita lavorativa, restituire il debito che hanno contratto con l'università. Questo contribuisce ad ampliare lo squilibrio tra le classi sociali, che diventa particolarmente significativo per quegli studenti che si trovano a dover pagare per un percorso di studi che, per svariate ragioni, non sono nemmeno riusciti a concludere. Per ovviare almeno in parte a questo problema, la catena di caffetteria Starbucks ha ideato un programma per aiutare i propri dipendenti a completare gli studi. Per la maggior parte dei ragazzi americani il problema non è andare al college, ma finirlo. sono circa 35 milioni, più dell'intera popolazione del Texas, coloro che hanno frequentato l'università ma non hanno ottenuto la laurea. E sulla pelle di molti brucia un debito di studio per migliaia di dollari, oltre alla cicatrice del fallimento. Anche se l'università negli States viene vista come un luogo di meritocrazia, i numeri dicono altro. Tra il 1970 e il 2012, la percentuale di 24enni di famiglie abbienti con un diploma universitario è cresciuta dal 40 al 73%, mentre per i coetanei di famiglie a basso reddito l'incremento è stato di appena 2 punti, dal 6 all'8%. Per arginare questa evidente mancanza di pari opportunità nella formazione e dunque nella vita, Starbucks si è alleato con una delle maggiori università pubbliche, l'Arizona State University. Tutti coloro che lavorano almeno 20 ore a settimana per uno dei 7.300 bar della catena negli Stati Uniti, ovvero circa 135.000 impiegati, possono accedere a un programma che prevede, per chi ha già frequentato il primo biennio, il secondo gratis. Chi non ha concluso il primo biennio o non si è mai iscritto all'università ha uno sconto del 22% sulle tasse. Finora, solo 1.500 dei 10.000 ragazzi aventi diritto si sono arruolati nel programma, ma sono state oltre 20.000 le domande di lavoro in cui il benefit istruzione rappresentava una motivazione fondamentale a entrare nella squadra Starbucks. Di certo è una grande mossa in termini di marketing. Contro l'incubo di restare barista per sempre, la compagnia di Seattle offre ancora una volta il sogno americano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Masu, Un caffè prima di studiare, dal settimanale di Repubblica del 29 agosto. Per non avere rimpianti bisogna vivere a fondo il proprio tempo. Per Frank Bruni, giornalista americano, questo si traduce nel passare una settimana all'anno assieme alla famiglia al completo, dimenticando per un attimo problemi e distrazioni. Che cos'è il tempo? Sosteneva Sant'Agostino che quando nessuno glielo domandava, lo sapeva. Se tentava di spiegarlo ad altri, non lo sapeva più. Per non essere martiri del tempo, consigliava Baudelaire, impiegatelo come vi pare, ubriacandovi, leggendo poesia, facendo atti di virtù. Non citava il poeta gli affetti, semplicemente gli affetti. Frank Bruni non è un poeta e neanche un filosofo, ma un editorialista del New York Times, e ha scritto un bell'articolo che può valere come un buon proposito per le prossime ferie estive. Racconta che da anni la sua famiglia ha mantenuto lo stesso rituale. Tutti e 20, genitori, figli, nipoti, la grande tribù al completo, si ritrova per trascorrere insieme una settimana in una casa sul mare che possa ospitare tutti. Un weekend lungo non basta. La vigilia di Natale passa in fretta, il pranzo della domenica anche. Dunque, 7 giorni e 7 notti insieme, a mangiare, a bere, a dormire, a chiacchierare, a passeggiare. Il tempo non è solo qualità, è anche quantità, non un distillato di momenti fugaci e meravigliosi che possano servire da alibi futuri, ma l'abitudine della presenza. Investire sulla durata, e la famiglia lo merita. Quella di Bruni lo merita di sicuro, visto che racconta di rivelazioni dei nipoti agli zii sugli amori, di scambi sui progetti scolastici dei ragazzi, di confidenze dei vecchi nonni a proposito della paura di morire, di grandi risate ricordando alcuni episodi dell'infanzia. Una gran bella idea se i risentimenti, le gelosie, i sospetti, le distrazioni, i videogiochi, il cellulare aziendale che squilla anche in vacanza lo permettono. Oltretutto sarebbe un giusto modo per evitare rimpianti postumi. Avrei potuto, perché non avere rimpianti è il segno di un giusto equilibrio nel rapporto con il proprio tempo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Di Stefano, Vivere a fondo il tempo per non avere rimpianti, dal Corriere della Sera del 7 settembre. Ai primi posti tra i progetti di crowdfunding che hanno raccolto maggiori quantità di denaro ci sono soprattutto oggetti tecnologici, o comunque qualcosa che chi aveva finanziato il progetto con la propria offerta sarebbe stato poi interessato ad avere. Fa specie quindi apprendere che una raccolta fondi finalizzata a un progetto umanitario, nella fattispecie la ricerca su una rara forma di tumore osseo, sia arrivata a decuplicare l'obiettivo iniziale di 3.000 sterline, al punto che oggi il nuovo target è stato spostato a 50.000 sterline. La raccolta fondi è stata lanciata da Kerry Lander, tastierista della band scozzese Camera Obscura. Nel 2011 Kerry aveva appreso di avere un osteosarcoma, una rara forma di cancro alle ossa che solitamente colpisce i bambini. Anche se Kerry sembrava aver ottenuto dei benefici dal trattamento, in maggio ha appreso che il cancro si era esteso a un livello tale da essere ormai inoperabile. Il mese scorso ha avviato una richiesta di fondi per aiutare le altre persone che si trovano nelle sue stesse condizioni. La campagna di Just Giving è stata rilanciata su Twitter da personalità del mondo dello spettacolo, come la presentatrice televisiva Dermon O'Leary, il cantante dei Franz Ferdinand, la DJ Laurence Laverne, l'autore Jim Ronson, l'attrice Molly Ringwald. I Camera Obscura si sono formati nel 1996 e hanno pubblicato finora 5 album, ottenendo un grande successo. Kerry Lander dice: «Da quando mi è stato diagnosticato un cancro nel 2011, mi è capitato più volte di pensare ad organizzare una raccolta fondi. Molte persone fanno cose straordinarie per beneficenza e rispondono ai loro traumi personali con la voglia di aiutare gli altri, ma sinceramente devo dire che questa cosa non mi aveva mai coinvolto più di tanto. Però pensavo che tutti quelli per cui la musica dei Camera Obscura significava qualcosa avrebbero potuto essere invogliati a fare delle donazioni e che quindi potenzialmente avrei potuto raggiungere molte persone. In maggio mi hanno detto che il cancro si era esteso a un polmone e questa volta non sarebbe stato operabile», dice la Lander. «Anche se mi hanno somministrato dei trattamenti per alleviare il dolore, è apparso chiaro che ormai il male era troppo esteso per essere curabile. Ho capito quindi che era ora di lanciare una raccolta fondi, non per me, ma per quelle persone che in futuro potrebbero avere la sfortuna di vedere le loro vite sconvolte dal sarcoma». Aggiunge: «Purtroppo non credo di avere ancora molto da vivere, sto molto male e le cose stanno avanzando rapidamente. Sono contenta di aver lanciato la campagna di Just Giving e questo è stato di vero conforto per me e per i miei familiari ed amici. E spero che la Fondazione Sarcoma UK possa portare speranza anche agli altri». Un portavoce di Sarcoma UK ha detto che la sua associazione è grata a Kerry per aver condiviso la sua storia e per aver contribuito a diffondere la conoscenza dell'osteosarcoma. «Siamo commossi nel vedere che la raccolta fondi continua a crescere», dice. «Questo ci aiuterà a fornire sostegno e informazione e a finanziare ricerca di alto livello, nella speranza di trovare una cura». Avete ascoltato la lettura dell'articolo Stars Rally to Sick Musicians Appeal dal Times del 1 settembre.